E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. È una giornata negativa complessivamente per i mercati. A Milano il FTSE All Share cede lo 0,58%, il FTSE MIB quasi lo 0,6%, mentre molto peggio fa l'America con il Dow Jones che lascia sul terreno un punto percentuale. L'attesa è per la decisione di questa sera della Federal Reserve, non tanto in realtà poi sulla decisione, perché i tassi dovrebbero rimanere invariati, anche perché sono allo 0%, tra lo 0 e lo 0,25, ma soprattutto per il comunicato. Insomma, ci sono segnali forti di rallentamento dell'economia americana e questo sarà uno dei temi di oggi. Vi avevamo detto ieri che avremmo approfondito il tema del rapporto di Mediobanca che ha analizzato i conti di oltre 2000 imprese italiane, conti dai quali emerge sul fronte dei dati un recupero dei margini, e questo è un tema che approfondiremo più avanti, ma il nostro tema di apertura sarà quello dell'IRAP. Perché? Perché risulta che alcune aziende arrivano proprio in forza dell'IRAP ad avere una pressione fiscale che sfiora o supera addirittura l'80%. Ne parleremo con un imprenditore che rientra in questa sfortunata, diciamo così, categoria, e anche con un esperto per capire come sia possibile un effetto così perverso di questa imposta. Ne abbiamo parlato a lungo, insomma, altre volte ci ritorneremo. Tutto questo tra poco, prima le notizie in breve di questa giornata. Iniziando dal petrolio, che ha aperto in netto calo a New York di 2 punti percentuali e a $79,89 al barile. Tra un attimo verremo ai dati americani, intanto qualche notizia dall'altra economia forte del pianeta, ossia la Cina. C'è un allarme a quanto pare sul fronte del credito, un nuovo giro di vite sulle banche, una nuova stretta viene detto, ed è stato detto dall'agenzia Bloomberg, contro le cosiddette bolle creditizie da parte delle autorità cinesi, che hanno ordinato appunto alle banche di fare accantonamenti a copertura dei prestiti trasferiti alle loro fiduciarie. Nel frattempo, proprio dalla Cina, le esportazioni si apprende che sono aumentate a luglio del 38,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, anche se il tasso di crescita è inferiore al 43,9% di giugno. Ma insomma, comunque, magari averceli questi tassi in Europa e negli Stati Uniti, le importazioni sono aumentate del 22,7%. Venendo agli Stati Uniti, ci sono i dati che hanno inciso anche sui mercati, ossia la produttività nel settore non agricolo negli Stati Uniti nel secondo trimestre ha segnato un calo a sorpresa dello 0,9% contro previsioni per un rialzo dello 0,2%. Il costo del lavoro è in aumento, è aumentato dello 0,2% contro il più 1,5% atteso dagli economisti. Ci sono stati diffusi proprio poco fa i dati anche sulle scorte all'ingrosso, le scorte di magazzino, che sono aumentate in giugno dello 0,1% contro attese per un incremento dello 0,6%, quindi un dato in questo caso lievemente migliore delle attese. Tra l'altro, la Fed, si diceva, si riunisce mentre si fa sempre più acceso il dibattito sulla possibile deflazione per l'economia americana, e anche all'interno della Fed l'attenzione, a quanto pare, secondo indiscrezioni giornalistiche, è sempre più concentrata sulla possibilità che gli Stati Uniti scivolino in una spirale deflazionistica di calo della domanda, dei prezzi e dei salari. Tra le altre cose, vi segnaliamo che, secondo uno studio dei ricercatori della Fed di San Francisco, c'è una significativa possibilità che l'economia americana scivoli di nuovo in recessione nei prossimi 2 anni. Le possibilità nell'arco dei prossimi 18-24 mesi sono più elevate di quelle di un'espansione economica. quindi vedremo se poi la Fed prenderà delle decisioni in questo senso. Nel frattempo il presidente americano Barack Obama dice si va nella giusta direzione, e però l'economia dovrebbe muoversi un pochino più velocemente, dice Obama. Obama difende le azioni decise dall'amministrazione al culmine della crisi, azioni che sono state in grado di stabilizzare il sistema finanziario e l'economia. Si è appreso anche ieri, tra le altre cose, che la riforma della finanza americana prevede ricompense per chi fornisce informazioni che consentono di scoprire frodi e imbrogli messi in atto da banche e società quotate a Wall Street. La SEC pagherà le soffiate tra il 10 e il 30% delle multe imposte al di sopra del milione di dollari. Quindi belle cifre decisamente. Veniamo all'economia europea, iniziando dalla Germania. Accelera l'inflazione guidata dall'aumento dei costi energetici. L'indice dei prezzi al consumo a luglio, calcolato usando il metodo armonizzato europeo, è salito al più 1,2% dal più 0,8% di giugno. In settimana, tra l'altro, è previsto il dato sull'inflazione italiana. Un'operazione finanziaria importante oggi, quello tra il gruppo francese di energia Gas de France Suez, che acquisirà il 70% del produttore inglese International Power. In base all'accordo, Gas de France cederà alla società britannica la propria succursale Energie Internationale. In cambio, il gruppo francese avrà il controllo di circa il 70% della nuova società, mentre agli azionisti di International Power andrà il 30%. La società frutto della fusione potrà contare su una capacità di produzione energetica di circa 66.000 watt e diventa tra le prime utility del mondo in termini di fatturato. Tra l'altro, Gas de France ha anche diffuso i dati della trimestrale, utile in crescita del 9,3% a 3,6 miliardi di euro, un risultato che supera le stime degli analisti che avevano previsto un utile di 3,2 miliardi di euro. Abbiamo parlato ieri di evasione fiscale, c'è oggi un'intervista alla Stampa del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, che dice quest'anno stimiamo di recuperare 10 miliardi, che è sopra agli obiettivi che si era posta l'Agenzia delle Entrate. Le vicende di Fiat, il licenziamento di 3 operai dello stabilimento di Melfi della Fiat, lo avete sentito poco fa anche nel nostro giornale radio, deciso dall'azienda il 13-14 luglio scorso, ha avuto carattere di antisindacalità ed è quindi stato annullato dal giudice del lavoro, che ha ordinato l'immediato reintegro dei 3 al loro posto. Dall'azienda nessun commento, mentre sul fronte finanziario si apprende che Norges Bank detiene il 2,024% di Fiat. Lo si apprende dagli aggiornamenti Consob sulle partecipazioni irrilevanti. Norges Bank è la banca centrale norvegese. Infine una nota su Tirrenia. Domani dovrebbe esserci la decisione del giudice. Nel frattempo però vengono proclamate 2 giornate di sciopero, il 30 e il 31 agosto prossimi, con il fermo di tutta la flotta, lo annuncia la Will Transport. Veniamo al primo tema di questa giornata, ancora una volta il fisco, ma in questo caso quello delle imprese. Nel frattempo poi torneremo a parlare di Stati Uniti, magari non di questo. C'è chi chiede via SMS al 349-238-6666 che in Italia si adotti lo stesso metodo della SEC, ossia pagare la delazione con i proventi delle multe. Chissà se qualcuno ci ragionerà. I dati di Mediobanca, ve li accennavamo ieri, li trovate oggi ampiamente anche sul Sole 24 Ore. È stata presentata l'indagine dati cumulativi realizzata dall'ufficio studi di Mediobanca. Sono stati presi in esame i bilanci di 2025 imprese industriali e terziarie. Lo studio, tra le altre cose, contiene naturalmente dei dati, delle informazioni sulla congiuntura e anche su come sta andando questo primo semestre. Questo, come vi dicevo, è un tema che approfondiremo più avanti, sempre in questa puntata di Focus Economia. E però abbiamo deciso di concentrare l'attenzione in apertura sull'IRAP. La tassa colpisce soprattutto le medie imprese, su cui incide per il 34,8% del prelievo totale, contro una media del 30% a causa della maggiore incidenza del costo del lavoro, 63% contro il 47% delle grandi aziende su cui si calcola l'imposta. Naturalmente pesa di più sulle aziende ad alta intensità di manodopera. Quindi si arriva a casi estremi nei quali l'80% dei guadagni finisce in tasse. Complessivamente, lo ricordiamo perché non è che sia una cosa facilissima da tagliare, il gettito IRAP vale 34 miliardi all'anno che finiscono nelle casse regionali e vengono utilizzati principalmente per finanziare la sanità. Saluto intanto il professor Raffaello Lupi, che è docente di diritto tributario all'Università di Roma 3. Buonasera, professor Lupi. Salve, di Roma Tor Vergata. Roma Tor Vergata. abbia pazienza, però prima di chiacchierare con lei noi ci andiamo a sentire un bell'esempio. Insomma, si diceva di imprese, e devo dire che il dato ci ha impressionato, che per le quali la pressione fiscale supera l'83%. E quindi vogliamo sentire innanzitutto la testimonianza diretta di un imprenditore. Ci ha raggiunto in collegamento Piero Gai, che è amministratore delegato di Ultraflex, azienda di Busalla in provincia di Genova. Buonasera Gai. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, iniziamo a fare più o meno una scheda aziendale. Ci dica che cosa fate voi e quanti dipendenti avete. Ultraflex fa parte dell'omonimo gruppo, siamo una media realtà per il nord-ovest d'Italia, occupiamo circa oggi 180 persone con un fatturato di circa 37 milioni di euro di consolidato, siamo una realtà che ormai è definitivamente fuori dalla crisi, siamo operativi in provincia di Genova e in Florida. Questo il quadro aziendale. Voi vi siete trovati a pagare uno di quei famosi conti di tasse che arrivano, insomma, siete arrivati ad avere una pressione fiscale che supera l'80%. Come è stato possibile questo? Ma ecco, noi siamo una realtà principalmente manifatturiera. Produciamo accessori per la nautica e un settore che è un settore labor intensive, cioè ad alto utilizzo di manodopera. Questo a causa del meccanismo dell'IRAP già ci penalizza e fa sì che l'IRAP negli ultimi 10 anni per noi non sia mai sceso al di sotto del 76%. Scusi, non l'IRAP, il tax rate, cioè l'incidenza delle imposte dirette sull'utile ante imposte. Ovviamente questa percentuale è alta soprattutto a causa dell'IRAP. Ecco, su questo livello di pressione fiscale quanto incide l'IRAP? Insomma, l'IRES è intorno al 33% nel nostro caso, quindi il resto è dovuto all'IRAP. Adesso io non ho, sono all'estero, non ho i numeri davanti a me, però le posso dire che quel numero, cioè superiore all'80% che lei prima menzionava, è dovuto principalmente al fatto poi che nel 2009, avendo purtroppo avuto delle perdite, l'IRAP l'abbiamo dovuta pagare ugualmente e quindi l'incidenza, il tax rate è ovviamente aumentato fortemente, quindi sopra l'83%, ma anche prima del 2009 comunque era già al 76%, quindi capisce che stiamo parlando di livelli di imposizione fiscale sull'utile ante imposte da paese socialista, cioè da un paese prima della caduta del muro di Berlino. Questo significa che l'Italia non è un paese libero dal punto di vista, dal punto di vista, diciamo, fiscale, perché lo Stato dice quello che un imprenditore guadagna, dice dove deve andare. Ecco. Non siamo liberi di determinare se poter reinvestire in azienda gli utili o remunerare il capitale. Ecco, avete pensato ad andarvene da questo paese? Insomma, lei ci diceva che avete anche degli impianti, una parte della vostra produzione è in Florida. Avete pensato di trasferirvi armi e bagagli, come si dice negli Stati Uniti? No, noi siamo una famiglia di imprenditori italiani e certamente investiamo anche all'estero, laddove le opportunità di crescita si presentano, e certamente però per esempio gli Stati Uniti, che non sono certo un paese dalla fiscalità agevolata, è un paese dove noi paghiamo sotto il 40% di tasse, per non considerare anche i contributi sul costo del lavoro, che sono enormemente più bassi, e quindi ovviamente diciamo il ritorno sull'investimento è di un altro tipo. Ma a me preme sottolineare veramente l'incredibile importo del tax rate, che insomma, quando si raggiunge livelli tra il 76 o sopra l'80% significa che siamo in una situazione inaccettabile. Io credo che e sono sicuro che sono molti gli imprenditori che si trovano nella nostra situazione, io credo che sia giunto il momento di far capire che per noi non può andare bene questa situazione qua, e che bisogna che le promesse elettorali si traducano in fatti a questo punto. Ci sembra che sia stato chiarissimo. Ringraziamo Piero Gai, che è amministratore delegato appunto di Ultraflex, per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, professor Raffaello Lupi, mi sembra che, poi ce l'ha detto lo stesso Gai, che sono tanti gli imprenditori in queste condizioni. Ci aiuta a far capire ai nostri ascoltatori come entra in gioco, nella maniera più semplice possibile, questo meccanismo perverso per cui uno si trova appunto un tax rate, ossia una pressione fiscale che supera l'80%, all'83%. Come mai accade questo? Dottor Gai aveva parlato di socialismo reale, no? Dicendo che era una pressione da socialismo reale, e il vecchio Marx diceva che il lavoro dell'impresa nel suo complesso produce salari, interessi e profitti, quindi l'IRAP colpisce tutti questi insieme, non solo i profitti, così viene fuori il tax rate dell'80%, perché si confronta con il profitto un'imposta che è commisurata anche a salari e interessi, cioè l'impresa paga su una ricchezza che non è sua, ma è dei dipendenti e dei finanziatori, nei limiti del valore aggiunto. È un'imposta sul valore aggiunto in senso economico l'IRAP, che non c'entra niente con l'IVA, pure l'IVA se la chiamano imposta sul valore aggiunto, ma è un concetto completamente differente. L'IVA è imposta sul valore aggiunto rispetto alle fasi precedenti di applicazione dell'IVA. L'IRAP è un'imposta sul valore aggiunto, cioè su quello che l'impresa produce in aggiunta al consumo di materie prime, di energie, di beni strumentali e di altri servizi di impresa, quello che poi viene diviso fra finanziatori, lavoratori dipendenti e imprenditore. Solo che paga esclusivamente l'imprenditore, perché sarebbe troppo complicato per andare ad inseguire i dipendenti, capire qual è la parte di valore aggiunto che si riferisce a loro, oppure migliaia di finanziatori. Cioè è una delle tante tassazioni in monte dove si colpisce la ricchezza nel luogo dove si produce. Quindi quando facciamo il tax rate dell'80%, io lo capisco perfettamente, è l'imprenditore di prima, il signor Gai, però lui sta confrontando un prelievo fiscale che si riferisce ai lavoratori e ai finanziatori con il suo profitto. È chiaro che viene fuori l'80%, c'è anche l'IRAP sul suo profitto, ma viene fuori una cifra così propositata perché lui sta pagando per gli altri e il sistema non funziona perché non è assicurata nessuna forma di rivalsa nei confronti dei lavoratori e dei finanziatori. Se vuole le dico perché non è, cioè non è una cattiveria che non è assicurata nessuna forma di rivalsa, ma siccome i conti si fanno alla fine, gli interessi e i salari si pagano durante l'anno, non sapremmo quale rivalsa fare nel mese di giugno, di novembre, prima di fare i conti, perché non lo sappiamo ancora se la pagheremo l'IRAP. Certo. Il calcolo dell'IRAP si fa quando si fa il bilancio, cioè a maggio dell'anno dopo. Certo, chiarissimo. C'è, secondo lei, un modo per sterilizzare questi effetti dell'IRAP senza danneggiare eccessivamente i conti pubblici? Ci scrive un ascoltatore, dice IRAP sì, IRAP no, la coperta resta sempre troppo corta. Il problema è quello, insomma, l'IRAP non solo ha assorbito un numero di tributi, mi pare che fossero 8, ma lei forse me lo potrà confermare. Sì, erano 7, ci mettiamo la tassa sulla salute, sulla partita IVA, l'ICIAP, chissà chi si ricorda. Esatto, cose, nomi che come dire, abbiamo in memoria, ma nessuno poi di noi ricorda esattamente, ma vale, come si diceva, appunto 34 miliardi e serve anche a finanziare la sanità delle regioni, quindi c'è un modo per, come dire, per contemperare le due esigenze. Ma, del gettito, perché quello per cui i soldi servono è un passaggio successivo rispetto alla logicità della ricchezza che si colpisce, cioè dobbiamo mettere in relazione chi paga, che sono le imprese, con la ricchezza che viene tassata, che viene percepita da altri. Quindi o istituiamo, sarebbe abbastanza semplice perché il diritto tributario in Italia sta combinato male, ma insomma anche rispetto a come sta combinato il diritto tributario sul piano dello studio di come si calcola la ricchezza da tassare, sarebbe possibile consentire quella rivalsa di cui parlavamo prima, cioè invece di pagarla tutti i mesi l'IRAP si paga alla fine, si vede esattamente quant'è pro quota, a quel punto si può ribaltare sui lavoratori e sui finanziatori. Adesso magari si alza il solito Pierino e dice sì, è il lavoratore che si è dimesso a novembre e gli farai la rivalsa sull'anno prima, con l'aliquota dell'anno prima, o magari ti metti da parte i soldi, aspetti l'IRAP e poi glieli dai dopo, ma insomma sono dei dettagli, non si può inceppare un meccanismo razionale perché in qualche caso particolare non si sa come fare. Sì, certo. Quindi bisogna portare la tassazione su chi è il titolare vero della ricchezza e l'impresa è solo un intermediario. Noi abbiamo oggi un intermediario che non riesce a rivalersi su quelli che veramente sono titolari della ricchezza. Allora, ci chiedono un ulteriore chiarimento perché insomma i nostri ascoltatori ritengono che forse la spiegazione di prima sia stata un pochino troppo complessa, professore. Il punto è questo, che l'IRAP va a colpire a monte dei guadagni, questa è la sostanza insomma dell'impresa. Va a colpire i guadagni, solo che non ti deduci i salari e gli interessi passivi, tutto qua. Quindi molto... si calcolano i guadagni deducendo gli acquisti di materie prime, le fatture per prestazioni di servizi, gli ammortamenti, tutto, esattamente come l'IRES, come le altre imposte, meno eccettuato il costo del lavoro e gli interessi passivi. E questo è l'esatto motivo per il quale le cosiddette aziende labor intensive, cioè ad alta intensità di manodopera, pagano di più ed è quello che poi emerge dallo studio di Mediobanca. Insomma, medie imprese, le più colpite, le medie imprese come quella che abbiamo sentito, 180 dipendenti e appunto alta intensità di manodopera. Io la ringrazio, professore, grazie al professor Raffaello Lupi, docente di diritto tributario all'Università di Roma 3, per averci aiutato e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. a chi ci dice di cosa stiamo parlando, delle tasse delle poche imprese che dichiarano utili, ossia Marco, rispondiamo che in realtà non è così. Il problema è esattamente questo, perché se ha sentito bene l'intervista all'amministratore delegato della società che abbiamo intervistato, il signor Gai, l'amministratore delegato di Ultraflex, ci ha raccontato che l'anno scorso era in rosso e ha pagato 269.000 euro di IRAP, e quindi evidentemente non parliamo solo di questo. Per quanto riguarda invece Olidata, ci arriveremo tra un attimo perché è il momento della borsa. Andrea Fontana, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, mercati complessivamente negativi nella giornata di oggi. Mi sembra che New York stia adesso recuperando qualcosina. Milano in realtà, come spesso accade in questi giorni, ha fatto un pochino meglio rispetto alle altre europee, no? Sì, molto ha contribuito, direi, il balzo di Telecom Italia e la tenuta di Fiat e di Intesa San Paolo, insomma titoli pesanti che non hanno permesso a Milano di replicare le performance negative degli altri indici europei. Questo è il quadro, dei dati ve ne abbiamo parlato poco fa. Comunque il Dow Jones adesso c'è dello 0,75%, perdeva quasi il doppio a una mezz'oretta circa dall'apertura. Francoforte meno 1,03%, Parigi meno 1,24%, Londra meno 0,74%, Milano appunto si diceva, FTSE MIB in calo dello 0,38%, FTSE All Share dello 0,44%. E iniziamo proprio dalle note positive, Andrea. Telecom Italia un più 3,5%. Come mai? Beh, diciamo che da qualche giorno il mercato sta cercando di leggere quelle che sono le novità arrivate dalla semestrale e soprattutto dalla scelta di Telecom, dalla soluzione sul fronte argentino. Appunto si è sbloccata la vertenza con la famiglia Wertheim, questo è stato letto inizialmente negativamente, i risultati semestrali, infatti il titolo era stato penalizzato all'indomani dei conti, ma la soluzione argentina chiaramente in una lettura più lucida, più fredda da parte di analisti e operatori sembra aprire nuovi scenari sul fronte sudamericano e soprattutto una soluzione su questo fronte, su questi asset di Telecom Italia, quindi il mercato sta iniziando un po' a rivalutare la situazione a mano che le indiscrezioni sui dettagli, diciamo, dell'operazione emergono. È stato il caso anche di oggi, il titolo ha guadagnato 3,5%. Allora, Snam Rete Gas guadagna un punto percentuale, Fiat ci dicevi è tra quelle positive insieme alla controllante, alla cassaforte Exor, più 0,19% per quest'ultima, più 0,70% invece per il titolo della casa automobilistica. Ci sono motivi particolari per questo? Beh, un piccolo rimbalzo, ieri ricordiamo che i conti di Chrysler, per quanto positivi, non avevano soddisfatto pienamente il mercato e Fiat aveva perso quasi il 2%, oggi un piccolo rimbalzo. Oggi è arrivata anche la notizia che la banca centrale norvegese, Norges Bank, è salita sopra il capitale, è salita sopra il 2% nell'azionariato di Fiat, quindi un investitore importante che crede nel titolo e questo ha dato fiducia, il rimbalzo ci stava, il titolo è rimasto, diciamo, sopra quota 10 euro. Tra i bancari oggi troviamo in positivo solamente Intesa San Paolo con un più 0,3%, poi troviamo Azimut con un più 0,19%, si diceva Exor con un più 0,19%, il resto sono praticamente tutti titoli in negativo, parliamo naturalmente del solo FTSE MIB. Tra questi soprattutto Buzzi Unicem ed Italcementi. Di Buzzi avevamo detto ieri che sarebbero arrivati i dati e i dati non sono piaciuti. Come sono, Andrea? Sì, i dati non sono piaciuti, bisogna dire che il settore costruzioni non è stato certamente positivo, quindi non ha aiutato Buzzi, tant'è vero che anche Italcementi ha perso più del 3%, ma certamente l'attesa era per questa semestrale che invece ha indicato un calo dell'utile del 70% a 17 milioni, una contrazione del fatturato di quasi il 9%, un calo dei margini margini intorno al 25%, insomma, soprattutto dopo la semestrale della controllata tedesca Dieckerhoff c'erano stati buone indicazioni per Boots, il mercato credeva in risultati migliori, invece la conferma un momento non facile, non solo per l'azienda piemontese, ma per l'intero settore dei materiali per le costruzioni, si è verificata ancora una volta e il titolo è stato fortemente penalizzato. Tra i titoli negativi hanno retto un pochino meglio Mediobanca con un calo dello 0,14%, Terna con un calo dello 0,24%, il Monte dei Paschi dello 0,3% e Finmeccanica che scende dello 0,17% dopo una seduta in realtà complessivamente positiva. Andrea? Sì, Finmeccanica è stata tra i titoli che ha tenuto un po' per tutta la giornata, è arrivata questa notizia di commesse a Panama per un valore di circa 180 milioni di euro per le controllate di Finmeccanica Selex System Integrati, Augusta Westland e Telespazio, certamente non diciamo una commessa di enormi dimensioni rispetto a quelle a cui ci ha abituato Finmeccanica, ma certo questo ha contribuito un po' a tenere il titolo. Per quanto riguarda i bancari, visto che tu ricordavi, Intesa San Paolo è stata l'unica ad essere in positivo. Per quanto riguarda Intesa è arrivata un'indiscrezione, una notizia che la banca italiana avrebbe rinunciato alla gara per rilevare la banca polacca e la banca polacca questo è un elemento diciamo che forse non ha influito sul titolo, ma che è stata diciamo la principale argomento d'attenzione per quanto riguarda Intesa San Paolo oggi. Stamattina borsa chiusa, è stata diffusa prima che aprisse la borsa, quindi la semestrale di Saras, alla fine il titolo cede lo 0,4%, accolta male forse ma non malissimo. Sì, ha fatto anche peggio durante la giornata, poi ha un po' recuperato il titolo del gruppo petrolifero della famiglia Moratti, i conti non sono stati molto, molto positivi, il secondo trimestre si è chiuso con un utile netto di 2,4 milioni, ha mostrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma il presidente Gianmarco Moratti ha detto che il comparto della raffinazione rimane in difficoltà, per cui è piuttosto cauto il mercato sul titolo, anche se c'è stato questo recupero finale che le ha fatto perdere meno del listino, insomma meno degli indici. Chiudiamo chiedendoti se ci sono notizie particolari, insomma ne abbiamo parlato anche ieri, Olidata, ormai sono 5 sedute di borsa che fa guadagni a due cifre, l'ascoltatore ci dice anche oggi un più 15%, in realtà addirittura un più 18,21% se non sbagliamo, che cosa succede insomma, perché voci di OPA da parte di Acer sono state smentite, eppure... Sì, sono state smentite entrambe le parti, sia da Olidata che da parte dell'azionista Acer che ha poco meno del 30%. In realtà sembra che il mercato abbia un po' riscoperto questo titolo, la società di computer, un titolo spesso dimenticato, che il mercato ha un po' riscoperto scommettendo che nonostante le smentite qualcosa possa accadere. Fino adesso non è successo, certo questo rally degli ultimi insomma, 5 sedute è quasi raddoppiato il valore, esatto. nel giro di 5 sedute. Bene, grazie anche per oggi ad Andrea Fontana e Radio Cor Il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buona serata. Un quadro finale prima di cambiare argomento, appunto parlare della situazione economica degli Stati Uniti e poi di nuovo del rapporto Mediobanca per quanto riguarda l'andamento più in generale dal punto di vista economico delle imprese, non solo di IRAP. Pirelli giù dell'1,79%, Fondiaria dell'1,48% così come Tenaris, Unipol di poco più dell'1,4% così come Luxottica, Lottomatica dell'1,33%, Saipem dell'1,20%, di poco più dell'1% Mediaset, la Popolare di Milano, Geox, Generali, il Banco Popolare. giù Eni dello 0,9%, poco più, così come Settima Microelectronics e Autogrill, CIR di poco meno dello 0,89% e Parmalat dello 0,8%, dello 0,7% A2A, Ansaldo e STS dello 0,65%, così come Enel, UbiBanca giù dello 0,61% e Prismian dello 0,6%, Atlantia di mezzo punto percentuale o poco più, così come Bulgari e Campari, e di poco meno Impregilo e Mediolanum, e degli altri si è detto. L'euro nel frattempo quota 1,3086 contro dollaro, in indebolimento. Si diceva, stasera la riunione del board della Federal Reserve, sono stati comunicati nel pomeriggio i dati su produttività e costo del lavoro, anche questa volta, come molti dati che abbiamo visto nelle ultime settimane, non particolarmente positivi. Saluto il professor Alberto Bisin, economista alla New York University, editorialista della Stampa. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera. I dati di oggi sulla produttività: scende a sorpresa nel settore non agricolo degli Stati Uniti, ve lo dicevamo poco fa, un calo a sorpresa dello 0,9% contro previsioni per un rialzo dello 0,2%. A questo si accostano dati che nelle ultime settimane non sono stati particolarmente positivi, compresa la revisione del PIL del primo trimestre, che è stata una revisione piuttosto pesante, tanto che leggiamo dalle agenzie che uno studio di ricercatori della Fed di San Francisco dice che le possibilità di una nuova recessione nell'arco dei prossimi 18-24 mesi sono più elevate di quelle di un'espansione economica. Insomma, si torna a manifestarsi il fantasma del cosiddetto double dip, della doppia recessione. Professor Bisin, poi verremo alla Fed di questa sera, alla riunione della Fed di questa sera. Sono circolate voci che ci possa essere un qualche intervento di qualche tipo, magari di alleggerimento dei mutui. Però prima voglio avere la sua sensazione, la sua idea su quel che sta succedendo sul fronte della situazione economica americana. Sì, difficile da dirsi, nel senso, indiscutibilmente i dati sul mercato del lavoro, sia quelli di cui parlava, sia più in generale, insomma, il rapporto fra le vacancies, i posti di lavoro e i disoccupati è molto alto, il che significa in generale, questo è un segnale che il mercato non funziona, che c'è qualcosa che non funziona o che, diciamo, le imprese domandano tipi di lavoro diversi da quelli che i lavoratori offrono e cose di questo genere, che un pochino è normale nelle recessioni, ma sembra particolarmente difficile in questa. E poi comunque i dati sono anche i dati sulla disoccupazione, fanno notare come sia soprattutto la disoccupazione a lungo periodo che sia cresciuta molto. Quindi tutto questo, diciamo, sì, è ovvio che fa temere una prossima recessione, ed è estremamente difficile capire cosa stia succedendo. Indiscutibilmente gli stimoli fiscali indiscutibilmente è troppo, però con ogni probabilità hanno avuto pochi effetti, insomma, un effetto relativamente debole. Forse l'aspettativa di future tasse sta un pochino bloccando gli investimenti, non lo so, è molto difficile a dirsi, direi, a questo punto. Quindi un quadro mi sembra complessivamente abbastanza confuso, nel quale si innesta un'altra ipotesi che sta circolando nemmeno troppo sotto traccia nelle ultime settimane, che è l'ipotesi deflazione, cioè che gli Stati Uniti siano vicini alla deflazione, prefigurando una sorta di scenario giapponese, insomma, no? Con l'economia stagnante e l'inflazione che scende. Sì, questo è un timore che c'è da molto tempo, insomma, molti sin dall'inizio, diciamo ancora da un anno fa, temevano la deflazione. Non vedo, diciamo, si capisce teoricamente perché questo sia un timore, non vedo in questo momento diciamo segnali in generale realmente. I tassi sono molto bassi, la banca centrale continua a buttare liquidità nel mercato, è vero che l'inflazione non riparte, però insomma non sta ripartendo neanche l'economia, quindi mi sembra, non lo so, non vedo, in questo momento non vedo un grosso pericolo di deflazione, però. Cioè c'è più un problema di crescita, molto semplicemente, di far ripartire i consumi. Essenzialmente l'economia non riprende, non solo i consumi, gli investimenti. Quanto questo sia dovuto a un funzionamento del mercato del credito non ottimale, può anche essere che le banche stiano ricapitalizzando soprattutto e quindi tendino a dare poco credito, anche questo è possibile, anche questo è, suona un po' Giappone, ma insomma... Infine, professore, una nota per quanto riguarda la riunione di questa sera della Fed. Ci si sono concentrate molte attenzioni anche da parte degli investitori, gettando un po' di incertezza in giro e anche sui mercati. Perché naturalmente la situazione economica evidentemente non consente alla Fed un rialzo dei tassi, no? Perché insomma una stretta non ci vuole. Abbassarli più di così non si può perché si va sotto zero. Certo. E si parla di una possibile manovra di alleggerimento sui mutui. Che opzioni ha Bernanke di fronte? Dunque, non molte. Ovviamente la banca centrale sta facendo tutto il possibile in termini di liquidità. Quello che può fare è, cercare di intervenire sui bond a medio termine, cioè cercare, come aveva fatto nei momenti cruciali della crisi, cercare di agire su tassi di interesse a medio lungo invece che non sui tassi che la banca pratica, le altre banche. È difficile farlo, molto difficile farlo, però io credo che questa sia l'unica strada che ha. Non vedo l'altra cosa che può fare è cercare di generare prospettive inflazionistiche, cioè cercare di argomentare che se anche a breve ci saranno segnali inflazionistici, la Fed non li bloccherà subito. Questo tipicamente genera aspettative inflazionistiche e potrebbe avere un effetto, però capisci, stiamo lavorando proprio sulle aspettative, quindi non ha molto da fare. Non ha molto da fare. L'ultimissima domanda che ho per lei, professor Bisin, riguarda invece la condizione di bilancio degli Stati Uniti, perché quello mi sembra che sia un altro tema centrale che sta emergendo un po' poco nel dibattito. Insomma, i paesi europei stanno varando dei piani di austerity abbastanza forti, compresa la Germania, che forse avrebbe delle condizioni di bilancio lievemente migliori rispetto agli altri. Ma gli Stati Uniti non è che siano messi particolarmente bene su quel fronte, sul fronte dei conti pubblici. No, infatti questo potrebbe essere, ci accennavo prima un attimo, potrebbe essere anche veramente una delle ragioni, una delle cause di un, speriamo non succeda, ma di un double dip, insomma, nel senso, quello che sta succedendo negli Stati Uniti è invece l'opposto, in varie dimensioni, in varie direzioni. Obama ha fatto una politica fiscale espansiva senza coperture o con coperture minime, e uno delle aspettative, quello che ci si aspetta è comunque una stretta fiscale subito dopo le elezioni di novembre, quindi una delle possibili ragioni per cui l'economia è un po' bloccata è questa, cioè è quella che gli operatori si aspettano nuove tasse, perché si devono rimettere a posto i conti, esattamente come si fa da questa parte dell'oceano e quasi inaspettatamente. Grazie nel frattempo al professor Alberto Bisin, economista della New York University ed editorialista della Stampa. Grazie professore, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Andiamo a chiudere questa puntata di Focus Economia tornando sull'indagine di Mediobanca sui dati cumulativi realizzata dall'ufficio studi. Si sono presi in esame i bilanci di 2025 imprese industriali e terziarie. Vi abbiamo parlato in apertura dell'IRAP, adesso parliamo più strettamente delle condizioni economiche delle aziende. Saluto Antonella Olivieri del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto in studio. Antonella, buonasera. Buonasera. E che ha seguito tutta la cosa per il Sole 24 Ore e oggi firma due belle pagine molto interessanti. Vediamo di dare un quadro generale. Ti chiederei innanzitutto su questo primo semestre 2010, insomma, che cosa emerge? Ecco, emerge che sta gran ripresa in effetti non c'è, nel senso che i ricavi crescono rispetto al primo semestre del 2009, però è stato il punto di riferimento è stato proprio il minimo probabilmente della crisi, periodo più nero, e quindi meno male che ci si risolleva da quei livelli, ma non basta, perché l'aumento dei ricavi della prima metà di quest'anno serve soltanto a recuperare un terzo di quello che si è perso l'anno scorso, e quindi significa che se va avanti così l'anno in sostanza chiuderà a livelli di ricavi inferiori a quelli del 2008, che è stato il primo anno, diciamo l'ultima parte, investito dalla crisi. Ecco, il fatto è che le aziende però non sono rimaste a subire la situazione così passivamente e hanno cercato, invece si vede dai margini operativi, di recuperare almeno la redditività, se non i ricavi. Su questo fronte invece ci sono dei risultati sensibili, perché i due terzi dei margini operativi netti, persi l'anno scorso sono stati recuperati. Antonella, questo dovuto essenzialmente ad un taglio dei costi fondamentalmente? Direi di sì. Non abbiamo dati approfonditi sul primo semestre, ma se ci rifacciamo a quello che è successo nel 2009, vediamo per esempio che le aziende hanno tagliato tutti i costi che potevano, forse anche quello che non potevano, ma non avendo scelta, per esempio gli investimenti tecnici, cioè gli investimenti in macchinari, impianti che servono per la produzione, sono scesi ai minimi del decennio. Sì, un calo del 18%. Sì, molto forte, anche il costo del lavoro è calato, ci sono stati esuberi, il costo del lavoro unitario è calato. E ugualmente non si è riusciti a evitare una perdita di competitività molto forte, anche questa ai massimi del decennio. Ecco, i dati del primo semestre 2010 si riferiscono, quelli analizzati a Mediobanca, solamente alle società quotate. Forse quelli del 2009 sono un pochino più completi, perché tengono insieme anche delle medie, piccole, medie imprese manifatturiere che in borsa non ci sono, molto semplicemente. Su quel fronte si ha l'impressione, a guardare i dati, naturalmente molto sono abbastanza grezzi, insomma, quelli divisi per dimensione aziendale, però si ha l'impressione che queste medie imprese abbiano retto abbastanza bene, forse anche lievemente meglio rispetto alle grandi. Può essere che in questo caso le dimensioni aiutino. Se guardiamo sempre alla parte reddituale, per esempio le medie imprese l'anno scorso hanno avuto un calo degli utili prima delle imposte dell'ordine del 20%, mentre le aziende maggiori addirittura del 46%, quasi 47%. Quindi se si va a vedere questo dato si potrebbe dire che le medie imprese forse sono più snelle, forse sono più flessibili, forse riescono ad adattarsi meglio, comunque hanno retto meglio. Diciamo che non sono state particolarmente aiutate dal sistema finanziario, perché non hanno potuto ricorrere come le grandi al mercato obbligazionario, perché non hanno le dimensioni sufficienti per farlo probabilmente, e in più hanno dovuto anche ridurre l'esposizione nei confronti delle banche e quindi banalmente restituire denaro alle banche. Grazie anche ad Antonella Olivieri del Sole 24 Ore per essere stata con noi e averci aiutato anche a fare il punto sulla situazione economica delle imprese italiane. E si chiude così questa puntata di Focus Economia. I consueti ringraziamenti a Valeria Bernardi in regia, a Mauro Del Corno in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.